roll for launch in 3, 2, 1. Certe volte mi preme sulla testa, evita queste scosse, terreno che si assesta, ma poi si progetta, la vita per il meno, sputo sangue su sto foglio, a cui non appartengo. Il tempo passa lento, giorno dopo giorno, fino all'ultimo tramonto, quando il sole è ancora spento, cerco un po' di pace dentro, dentro questo inferno mi sto autodistruggendo. Forse è colpa mia ma non lo accetto, ho sogni nel cassetto, e l'exotan non calma, il cuore dentro al petto, subisci nell'effetto. La notte tarda, nessuno ti ha costretto di evitare di assaggiarla. Chiudi gli occhi e guarda, quanto fa paura, è pieno di fantasmi tra queste quattro mura. Metto una questura per togliermi la poca libertà che su sto micro ancora adesso dura. Giura su tutti i miei peccati, nel girone dei dannati, con la merda fino al collo. Nessuno ci ha salvati, rovinati dal nostro stesso eccesso, con la bava bianca in bocca, chiusi dentro a un cesso. La morte viene e bussa, sempre alla tua porta. E se non c'è nessuno in casa, aspetta che ritorna. Scavo la mia forza, finché ci avrò la forza, e non ti do soddisfazioni, neanche questa volta. Devi stare calmo, col cuore fatto a pezzi, il cielo resta in alto, su tutti i nostri passi. Il sole sta sparendo, come in un'eclissi. Catastrofi dal basso, dal fondo degli abissi. Devi stare calmo, col cuore fatto a pezzi, il cielo resta in alto, su tutti i nostri passi. Il sole sta sparendo, come in un'eclissi. Catastrofi dal basso, dal fondo degli abissi. La terra attorno trema, ma è tutta un'altra storia. Se il mondo va in cancrena e brucia come Babilonia, perdo la memoria, cancello i miei ricordi, ostaggi di sto tempo che ci vorrebbe morti. Tagli sopra gli occhi, troppe cicatrici, fogli troppo grossi per raccogliere quello che dici. Quanti sacrifici per fare un passo avanti, latente i tuoi nemici sono lì poco distanti. È pieno di fantasmi dentro al mio passato, mi cercano di giorno, sento sul collo il fiato. Io mi son salvato sul filo del rasoio, assumendo sta violenza per sputare tutto l'odio. Ciò di cui ho bisogno ce l'ho stretto dentro al palmo, inutile cercare di capire o di ascoltarlo. Dimmi come faccio a restare ancora calmo, la mia coscienza muore di overdose dentro a un bagno. Piango lacrime di sangue per voi altri, nel fondo solo fango dove affonda le mie passi, nella corsia coi pazzi dentro l'ospedale, mentre cerchi qualche cosa di normale. Dentro l'alveare, schiacciati come insetti, uno sopra l'altro per vederne poi gli effetti. Catastrofi dal basso, dal fondo degli abissi, normalità di vita fatta a pezzi. Devi stare calmo, col cuore fatto a pezzi, il cielo resta in alto, su tutti i nostri passi. Il sole sta sparendo, come in un'eclissi. Catastrofi dal basso, dal fondo degli abissi. Devi stare calmo, col cuore fatto a pezzi, il cielo resta in alto, su tutti i nostri passi. Il sole sta sparendo, come in un'eclissi. Catastrofi dal basso, dal fondo degli abissi. Devi stare calmo, col cuore fatto a pezzi, il cielo resta in alto, su tutti i nostri passi. Il sole sta sparendo, come in un'eclissi. Catastrofi dal basso, dal fondo degli abissi. Devi stare calmo, col cuore fatto a pezzi, il cielo resta in alto, su tutti i nostri passi. Il sole sta sparendo, come in un'eclissi. Catastrofi dal basso, dal fondo degli abissi.